pieno le prove un subito fedele al fatto chi m'accusa i vostri birri in bandrugar la villa segno che ben celata sospetti di spia per le vostre ricerche e mi ride e rido ancora e rido ancora questo è il luogo di lacrime badate or basta rispondete fra noi poi andò buoni amici via quell'aria sgomento solo tra miurdi. Sciarrone, che dice il cavalier? Nega. Insistiamo. Oh, che inutile. Quella prova, Roberti, ripigliamo! Roberti. È svenuto. Assassino! Voglio vederlo! Portatelo qui. Thank you. farebbe grazia un unico tovare. Come tu modi, addio, così, così ti voglio. S'avvia, guida la scorta ultima ai condannati. Il tempo passa, sai quale oscura opera laggiù si compia. No, si trinza un battivo. Alvomario del tuo voler, non resta che un'ora di vita. Thank you. sia penna morto alle forche. E l'altro prigionier, cavalier Cavaradossi. È tutto pronto, eccellenza. Io m'assisto. Aspetta. Ebbene. Odi. Non libero l'istante lo voglio. Occorre simular, non posso far grazia aperta. Bisogna che tutti abbian per morto il cavalier. Quest'uomo fido provvederà. Ti m'assicuro. L'ordine che gli darò voi qui presente. Spoletta, chiudi! Ho mutato d'avviso. Il prigioniero si è fucilato. Attenti. Faccemmo del conte Palmieri un'uccisione simulata. Mi avvenne nel Palmieri, hai ben compreso? Ho ben compreso. Va, voglio avvertirlo io stesso. E sia, le darai passo. Vada allora quarta. Tenmi la promessa. Non ancora. Voglio un salvacondotto onde fuggir dallo stato con lui. Partir dunque volete? Sì, per sempre. Si adempia il voler vostro. Thank you. Promettete di consegnarle il mio ultimo addio. Esso è vostro. Scrivete. grande. Mi cadea fra le braccia. Thank you. da te la vita prende ogni splendore, all'esser mio la gioia ed il desire. Nascondi te come di fiamme ardore, io vorrei le ingegni a scolorire, vedrò nell'occhio tuo rivelatore. Tosca in teatro. Non ridere. Così.